lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo. So che ogni nuvola è diversa, so che nessuna è come te. Io non lo so se è così sottile il filo che ci tiene. Io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so sono dentro o fuori, se mi metto in pari. So che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre il sogno a dare forma al mondo, sono sempre il sogno a fare la realtà. Sono sempre il sogno a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. Io non lo so se è già tutto scritto come è stato scritto. Io non lo so che cosa viene dopo. Io non lo so se ti tieni stretto ogni tuo diritto. So che ogni attimo è diverso, so che nessuno è come te. La giornata finita, la stanchezza salita, salute brindata, provi a fare i conti. La giornata finita, alla fine capita, a preghiera.